Applaudiva tuttavia ugualmente, forse per simpatia, incontrastata fiducia, o forse perché infine tacesse. Anche mio padre aveva fatto una volta un comizio in quegli anni. Gli avevano chiesto di mettere il suo nome nella lista dei candidati al Fronte Popolare, ed era il Fronte Popolare il contrassegno in cui si presentavano comunisti e socialisti insieme. Lui aveva accettato. Gli avevano detto che doveva fare almeno un comizio, uno solo. Lo invitarono a dire quello che gli pareva. Lo condussero in un teatro, lo fecero salire sul palco e mio padre cominciò il suo comizio con queste parole: «La scienza e la ricerca della verità». Non parlò che della scienza per una ventina di minuti e la gente taceva, stupita. Disse a un certo punto che le ricerche scientifiche erano in America più progredite che in Russia. La gente, sempre più disorientata, taceva. Tuttavia nominò a un tratto, incidentalmente, Mussolini, che lui usava chiamare, disse, l'asino di Predappio. Scoppiò allora un fragoroso applauso e mio padre si guardò attorno stupito, disorientato a sua volta. E questo fu il comizio di mio padre. Balbo, che era stato presente a quel comizio, rideva nel ricordo. Mio padre gli piaceva molto e ricordava di quei 2 anni di medicina che aveva fatto lui soltanto. C'era sulla porta dell'istituto all'inizio dell'anno scolastico gazzarra e lotte con le matricole e mio padre, Balbo raccontava, si buttava in mezzo a quella mischia a testa bassa come un bufalo che si butta all'assalto di una mandria per aprirsi un varco tra la folla e passare. Mio padre, ricordavo, correva così a testa bassa come un bufalo quando durante la guerra lo coglievano i bombardamenti per strada. Mio padre non scendeva nei rifugi e quando suonava la sirena d'allarme si metteva a correre non al rifugio ma in direzione di casa sua. Correva rasentando i muri a testa bassa nel rombo degli aeroplani e nel sibilo, felice nel pericolo perché il pericolo era cosa che amava. «Se impiezzi», diceva più tardi, «figurati se vado nel rifugio, mi importa, sai, a me di morire». Quando io dissi a mia madre che avrei lasciato Torino e sarei venuta a stare a Roma, mia madre ne ebbe un gran dispiacere. «Mi porti via i miei bambini», disse. «Ma guarda che cagna che sei!» «Me li manderà in giro stracciati?» diceva con Miranda. «Me li manderà in giro senza bottoni, col culo di fuori?» Si ricordava di quando mi veniva a trovare al confino e io avevo là in cucina un cestino con tutta la roba da raggiustare e non l'aggiustavo mai. Mi mettevo un momento a cucire, poi lasciavo stare e dicevo: «Non posso più cucire, ho perso l'ago». Da molti anni ormai non avevo una casa per me, né un armadio con le lenzuola, né un cesto con la roba da aggiustare, che poi non aggiustavo. Da molti anni vivevo con mio padre e mia madre, ed era mia madre che pensava a tutto. D'estate erano loro, mio padre e mia madre, che pensavano a portare i bambini in montagna, e li portavano di solito a Perlotoa, dove prendevano in affitto la solita casa con quel prato davanti. Io restavo sola in città e non lasciavo la città che per pochi giorni, nel periodo che la casa editrice chiudeva. «Andiamo a camminare», diceva mio padre in montagna al mattino presto, vestito della sua antica giacca color ruggine, coi calzettoni, le scarpe coi chiodi. «Su, avanti, andiamo a camminare, non bisogna impigrirsi! Non voglio che state sul prato!» Tornavano in settembre e mia madre chiamava la Tersilla a far calzoni e grembiali da scuola, pigiami e paltò. «Io li voglio in ordine. I bambini a me mi piace tenerli in ordine, che abbiano tutta a posto la sua robina. All'idea che stanno ben caldi mi sento tutta riconfortata». La sera mia madre leggeva ai bambini Senza famiglia. «Com'è bello il Senza famiglia», diceva sempre. «È uno dei libri più belli che ci sono». «Erano molto belli anche i libri della Marchesa Colombi», diceva. «Peccato che non si trovano più in giro. Dovresti dire al tuo editore», mi diceva, «di ristampare i libri della Marchesa Colombi. Erano bellissimi». Ai bambini avevo regalato Incompreso. Me l'aveva letto quando ero piccola la Paola, che amava a quel tempo le storie molto tristi, commoventi, che facevano piangere e che andavano a finir male. A mia madre non piaceva Incompreso. Lo trovava troppo triste. «È più bello il Senza famiglia», diceva. «Non c'è confronto, Incompreso è troppo sentimentale, non mi piace molto. E invece il Senza famiglia, Capi, il signor Vitali, le belle fasce hanno mentito, onora il padre e la madre, le belle fasce hanno detto il vero. e continuava a enumerare i personaggi di Senza Famiglia e i titoli dei capitoli, che sapeva a memoria, avendo letto quel libro più volte ai suoi figli e leggendolo ora ai miei bambini, un capitolo per sera, sempre cadendo nel fascino di quelle vicende che prendevano a tratti pieghe drammatiche, ma non andavano però a finir male. E cadendo nel fascino del cane Capi, per il quale lei chiamava molto i cani, aveva una gran simpatia. Mi piacerebbe averlo io un cane così, ma il papà, figurati se mi lascerebbe tenere un cane. Mi piacerebbe avere anche un bel leone. Mi piacciono tanto i leoni, tutte le bestie feroci, diceva, e correva appena poteva al circo prendendo la scusa di portarci i bambini. Mi dispiace che a Torino non c'è il giardino zoologico. Ci andrai tutti i giorni. Ho sempre tanta voglia di vedere la faccia di qualche bella bestia feroce. No, incompreso, no, non è tanto bello, diceva. Piaceva alla Paola quando era ragazza perché avevano la Paola e Mario la mania delle cose tristi. Adesso però per fortuna gli è passata. Avevano fatto una gran lega loro due, Mario e la Paola, da ragazzi, diceva mio padre. Ti ricordi quando stavano sempre a ciucciottare col povero Terni? Avevano la mania di Proust, non parlavano d'altro. Adesso la Paola e Mario sono molto in freddo, non si guardano più nemmeno in faccia. Lulle, che asini. Quando esce la tua traduzione di Proust, mi diceva mia madre. Io Proust non lo rileggo più da tanto tempo, però me lo ricordo, è bellissimo. Mi ricordo Madame Verdurin, Odette, Swann, ma Madame Verdurin doveva essere un po' come la Drusilla. Quando mi risposai e me ne andai dopo qualche tempo a vivere a Roma, mia madre dunque per un poco mi serbò rancore. Ma il rancore non metteva mai nel suo animo radici molto amare e profonde. Io andavo e venivo tra Roma e Torino. Mi preparavo a lasciare Torino per sempre. Dicevo addio nel mio cuore alla casa editrice, alla città. Mi proponevo di lavorare ancora alla casa editrice nella sede romana, ma pensavo che sarebbe stato molto diverso. Quella che amavo era la casa editrice che s'apriva sul corso Re Umberto, a pochi metri dal caffè Platti, a pochi metri dalla casa dove stavano i Balbo quando abitavano ancora a Torino e a pochi metri da quell'albergo sotto i portici dove era morto Pavese. Amavo nella casa editrice i miei compagni di lavoro, quelli e non altri. Pensavo che non avrei saputo lavorare in mezzo ad altra gente. Difatti, quando poi fui a Roma, finii per lasciare la casa editrice, essendo incapace di lavorare senza l'editore e quei miei antichi compagni. Gabriele, mio marito, mi scriveva da Roma che mi sbrigassi a venir giù coi bambini. Era diventato amico dei Balbo e li andava a trovare la sera quando era solo. Però a Roma devi imparare a punciottare, disse mia madre. O se no devi trovarti una donna che sia buona di punciottare. Trovati una sarta che venga in casa, un po' come la Tersilla. Chiedi alla Lola. La Lola ce l'avrà una sarta in giornata. Oppure chiedi alla Delle Rasetti. Vai a trovare la Delle Rasetti, che è così simpatica. Mi piace tanto la Delle. Scriviti l'indirizzo della Delle Rasetti, disse mio padre. Te lo scrivo io, non perderlo. Ti scrivo anche l'indirizzo di mio cugino, il figlio del povero Ettore. È un bravissimo medico, puoi chiamarlo. Guarda di andare subito a trovare l'Adele, disse mio padre. Guai a te se non ci vai. Non voglio che fai l'asina con l'Adele. Voi altri siete tutti degli asini. Meno Gino, siete tutti degli asini con la gente, voi altri. Mario è un asino. Deve essere stato asinissimo con la Francis quando è andata a Parigi a trovarli. Gli deve aver dato poco spago. Lei mi ha fatto capire che la casa era molto in disordine, al solito. Pensare che una volta era così ordinato, Mario, disse mia madre. Era così meticoloso, noioso, era come il Silvio. Ma adesso, disse mio padre, è cambiato. La Francis mi ha fatto capire che c'era disordine. Siete dei grandi disordinati voi altri. Io no, io sono ordinata, disse mia madre. Guarda i miei armadi. Ma che, tu sei una gran confusionaria, non trovavi il mio vestito da inverno? Sì che lo trovavo, lo sapevo benissimo dov'era, ma l'avevo messo via per regalarlo perché è vecchio, Non lo puoi più portare, Beppino. Figurati se lo butto via, non mi sogno neanche. Tanto muoio, figurati se mi faccio un vestito nuovo. Te l'hai rifatto fare quando sei andata a Liegi? L'hai portato tutta alla guerra? Sono quasi 10 anni che lo porti. Cosa conta che l'ho portato? È un vestito ancora buonissimo. Io non butto via i soldi come voi altri. Tutti megalomani siete voi altri. Anche mia mamma, poveretta, disse, insisteva sempre che mi facessi i vestiti. Non voleva che quando andavo dalla Vandea facessi cattiva figura. Il povero Ettorino, mio cugino, era molto elegante e non voleva che sfigurassi vicino a Ettorino. Dalla Vandea, disse, c'erano pranzi di 50-60 invitati, c'era tutto un corteo di carrozze. Serviva in tavola Beppo Fachin. Una volta è cascato dalle scale e ha rotto una gran catasta di piatti. Mio fratello, il povero Cesare, quando si pesava dopo quei pranzi era cresciuto di 5 o 6 chili. Il povero Cesare, mio fratello, era troppo grasso, mangiava troppo. Non vorrei che Alberto, che mangia tanto, diventasse grasso anche lui come il povero Cesare. Tutti mangiavano troppo. Si mangiava troppo a quel tempo. Mi ricordo la nonna Dolcetta, quanto mangiava. Mia mamma, poveretta, invece mangiava poco. Era magra, poveretta, era molto bella mia mamma da giovane. Aveva una bellissima testa. Lo dicevano tutti che aveva una bellissima testa. Anche lei dava pranzi di 50-60 invitati. C'era il gelato caldo, il gelato freddo. Si mangiava molto bene. Mia cugina Regina a quei pranzi era elegantissima. Ah, era bella, molto bella Regina. Ma no, Peppino, disse mia madre, era una finta bella. No, ti sbagli, era molto bella, mi piaceva molto. Anche al povero Cesare gli piaceva molto. Però da giovane era un po' leggera, era molto leggera. Che mia mamma lo diceva sempre che Regina era molto leggera. Ci andava qualche volta anche mio zio il demente a quei pranzi di tua mamma, disse mia madre. Qualche volta, ma non sempre. Il demente si dava un po' di aria, trovava che era un ambiente troppo borghese, reazionario. Si dava un po' di aria, tuo zio. Era così simpatico, disse mia madre. Com'era simpatico il demente, com'era spiritoso. Era come il Silvio. Il Silvio tirava da lui. Egregio signor Lippmann, disse mia madre. Ti ricordi come diceva? E poi diceva sempre, beati gli orfani. Diceva che tanti matti erano matti per colpa dei loro genitori. Beati gli orfani, diceva sempre. In fondo aveva capito la psicanalisi, che ancora non era stata inventata. Egregio signor Lippmann, disse mia madre. Mi sembra ancora di sentirlo. Mia mamma, poveretta, teneva carrozza, disse mio padre. Ogni giorno faceva la sua passeggiata in carrozza. Ci portava sempre Gino e Mario in carrozza, disse mia madre. E loro dopo un po' si mettevano a vomitare perché gli dava noia l'odore del cuoio e sporcavano tutta la carrozza e lei si arrabbiava. Poveretta, disse mio padre. Le è dispiaciuto tanto quando ha dovuto dar via la carrozza. Poveretta, disse mio padre. Quando sono tornato dallo Spitzberg, che ero stato nel cranio della balena a cercare i gangli cerebrospinali, avevo con me in un sacco i miei vestiti tutti sporchi di sangue di balena e a lei le faceva schifo toccarli. Li ho portati in soffitta e puzzavano in un modo terribile. Non li avevo mica trovati i gangli cerebrospinali, disse mio padre. Mia mamma diceva, hai sporcato dei vestiti buoni per niente. Forse non li avevi cercati bene, Beppino, disse mia madre. Forse li dovevi cercare ancora. Ma che, Sempia, che non sei altro. Non era mica una cosa semplice. Sei subito pronta a buttarmi giù. Ma guarda che asina che sei. Io quando ero nel mio collegio, disse mia madre, mi facevano anche a me studiare le balene. Insegnavano bene la storia naturale, a me mi piaceva molto. Ci portavano però nel mio collegio un po' troppo a messa. Bisognava sempre confessarsi. Noi certe volte non sapevamo che peccato confessare, allora dicevamo, ho rubato la neve. Ho rubato la neve. Com'era bello il mio collegio, come mi sono divertita. Tutte le domeniche, disse, andavo dal Barbizon. Le sorelle del Barbizon le chiamavano le Beate perché erano molto bigotte. Il Barbizon, il suo vero nome era Perego. I suoi amici gli avevano fatto questa bella poesia. Bello è veder di sera e di mattina del perego la ca e la cantina. Oh, non cominciamo adesso col barbison, disse mio padre. Quante volte l'ho sentita contare questa storia? Anna Bonaiuto ha letto Lessico familiare di Natalia Ginzburg. A cura di Anna Antonelli e Lorenzo Pavolini, regia di Luigi Iavarone. Per scaricare e riascoltare il programma radio3.rai.it.